Sorella terra, ascolto te. Ogni conchiglia oceano è. E poi ogni foglia è un battito che sa vibrare all'unisono con noi. Se vuoi, sorella terra, che pace dai. Coi tuoi deserti, i tuoi ghiacciai, così sento nel mio spirito di te. Oh,